Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Allora, caro Oscar, questa cos'è? Letteratura o no? No, ma questa è letteratura assoluta. No, io sono assolutamente felice di questa scelta. Non sono un passatista, castista, letteratista. Barricchista. No, oh, ecco, no, ma accanto a Baricco ci sono anche fior di romanzieri. Ecco, Baricco è un tecnico dei suoni rispetto a chi ha protestato, però. Possiamo dirlo, l'antica poesia, quella greca, quella latina, era per esempio scandita in metrica e cantata. Allora, non posso pensare che questi grandi nomi della letteratura lo abbiano dimenticato e non sappiano che la prosodia, la metrica erano appunto accompagnamenti musicali. Il piede del metrico, delle grandissime cose iniziali della letteratura, l'Iliade, era fatto per essere cantato. Allora, la mia opinione non è che la pensi politicamente come Bob Dylan, però le canzoni di Bob Dylan sono meravigliose. Adesso diciamoci cose come poi io appartengo a una generazione anche evidentemente di, non so, i giovani ventenni se la pensano così, però non si discute, cioè Knocking on Heaven's Doors, cioè Mr. Tambourine, sono cose che hanno per la mia generazione veramente rappresentato l'equivalente di Thomas Dylan, un grande poeta degli anni 30 per la generazione precedente. Questo lo penso e dico che è una gran bella scelta. Bene, è come dire che De André non è poesia. Capito, o Guccini non lo è per alcuni versi. Quindi, per me è una cosa che mi ha stupito, se lo dico, tra quelli che ieri, per chi ha visto il filmato, al pronunciamento della portavoce della commissione, ma tutti quanti hanno fatto, oh, ecco, anch'io avrei fatto e avrei battuto la mano. In the wind. Caro Oscar, in tutto questo, come ben sai, è venerdì, non dimentichiamo anche Dario Fo, che cioè, Dario... va bene, va sì, bene, d'accordo, bene. D'accordo, capisco. Anche che Dario... è coi santi a questo punto, che no? Che è coi santi, sì, beh, non lo so se sia coi santi, ma lui è un po', capisci, era un po' sul fureo, per così dire. Può essere per lui un passaggio, gli faranno fare qualche spettacolino in purgatorio prima di farlo ascendere, secondo me. Sì, sì. Ma con anche quali lui... santi oggi sarebbe? Beh, oggi c'è un santo tra tutti che voglio ricordare, un santo caro al culto di Capua, dei capuani, perché a me fa in mente fa venire in mente un po' Banfi, perché è San Lupulo e allora siccome San Lupulo, allora San Lupulo è questo santo caro ai capuani, e non è il santo vero del giorno, quello più importante è San Callisto, papa romano all'inizio della tradizione cristiana del 200 dopo Cristo, però San Lupulo e Modesto caro ai capuani insieme a San Gaudenzio di Rimini secondo me sono i veri santi del giorno. Quanto a, andiamo indietro nella storia, cosa capitava oggi, in questo giorno, nel 1066, i Normanni levavano ai Sassoni nella battaglia di Hastings il dominio sull'isola, ma soprattutto nel 1980 nella mia città, non 40.000 come i giornali titoleranno, un po' meno, ma insomma tante migliaia di quadri della Fiat dei torinesi scesero in piazza per la prima volta dicendo no, basta, avete rotto le scatole. Oggi. Era oggi, la marcia dei 40.000, avete rotto le scatole, basta con i vostri scioperi, fateci lavorare. È la prima volta che l'Italia disse, ops, c'è anche una maggioranza silenziosa che non si riconosce nei riti delle bandiere rosse. Bene. E tra l'altro questi erano i quadri, ma insomma i dipendenti, e nello specifico i dipendenti pubblici, caro Oscar. I Checco Zalone. I Checco Zalone, esatto. Sentiamo, allora intanto diamo il numero di telefono 800 24 00 24, perché Renzi ha annunciato ci saranno 10.000 concorsi, soprattutto pare le forze dell'ordine, infermieri, medici, ma ha anche detto ieri che cosa? Una delle sfide più importanti, caro Antonio, su cui vi chiameremo a darci una mano, anzi a fare meglio di noi, è quella del rapporto con la pubblica amministrazione e con i nostri dirigenti. Rottamare la filosofia checco-zaloniana dell'impiegato pubblico, ma andare a dire che loro per primi devono tornare a sentire l'orgoglio di servire il tricolore. Insomma, Oscar, qui cioè, tu dici forse un senso pubblico, un senso civile ci vuole, però magari anche lo stipendio adeguato. Per carità, siamo i primi a fustigare i cosiddetti furbetti, quelli che fanno le truffe, quelli che. Però che dici? Cioè... No, beh, da una parte fa sorridere il fatto, noi ci siamo occupati mille volte, no, dei furbetti, delle carte, però abbiamo sempre ricordato che il problema della efficienza e della trasparenza della pubblica amministrazione non parte dal basso, cioè non parte dalla generalizzazione, che un po' mi stupisce, sono il premier della mentalità checco-zaloniana, posto fisso e appena lo ottengo faccio quel che mi pare, parte dall'alto, cioè se tu non cambi la dirigenza pubblica spingendola appunto alla trasparenza, all'efficienza e alla responsabilità, identificando criteri di produttività ex ante su cui misurare l'ex post, tu non riesci a cambiare la macchina. Quindi è stato un po' ingeneroso secondo me ieri nel dire che bisogna rottamare questo atteggiamento checco-zaloniano. Non ci deve sfuggire, cari ascoltatori, che man mano che si avvicina il 4 dicembre, oggi siamo all'annuncio di assunzioni pubbliche, bonus e così via, ma questo lo sappiamo, farà parte dell'avvicinarsi alla scadenza referendaria. E va bene, comunque questo per quel che riguarda i dipendenti pubblici, poi annunciato appunto questi 10.000 concorsi, staremo però io sarei curioso di sapere ai nostri ascoltatori, ma voi siete dipendenti pubblici, vi sentite Checco Zalone da rottamare, come ha detto il premier? Esatto, chiamateci all'800 24 00 24. Allora, tra l'altro, di fatto è un dipendente pubblico anche il sindaco, no? Un sindaco è un dipendente pubblico, Oscar, rappresenta... È un amministratore, non un dipendente pubblico. Qualcuno pensa che sia un dipendente, un amministratore, però c'è un sindaco, te lo ricordi? E come no? Il sindaco di Licata, che da mesi intraprende una battaglia di legalità. Cioè vuol portare avanti peraltro quelli che sono degli ordini della procura di Agrigento, non è che si è messo in mente qualcosa di strano, cioè abbattere gli alloggi abusivi. Naturalmente per molti abbattere gli alloggi abusivi, Alessandro, è esattamente qualcosa di strano, quindi... Esatto, e soprattutto ora lancia una denuncia perché dopo che ha tentato di eseguire dei principi di legalità è finito sotto scorta. Ha avuto diversi problemi. Oggi è con noi il sindaco di Licata, Angelo Cambiano. Sindaco, buongiorno e grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Perché lei ha lanciato un allarme molto secco e semplice. Se sono ancora abbandonato e se mi sento solo, io sono costretto a dimettermi. Intanto ha deciso cosa farà? Ha lanciato questa provocazione oppure davvero è sul punto di rassegnare le dimissioni? No, guardi, siccome mi ritengo di essere una persona seria, se non arrivano riscontri concreti sarò conseguenziale. Lei poco fa parlava ai dipendenti pubblici, un sindaco percepisce un'indennità, io nel mio comune, che è un comune di 40.000 abitanti circa, di 1.600 euro circa, un'indennità netta. Io ho svenduto la mia vita avendo un posto di lavoro, perché credo nell'interpretazione del ruolo come servizio alla comunità, per 1.600 euro al mese. Vivo sotto scorta da 4 mesi. Per come ha detto lei, fare semplicemente il mio dovere, cioè adempiere ad un ordine della Procura della Repubblica che invitava il Comune di Licata a procedere alla demolizione di manufatti abusivi, immobili entro i 150 metri dalla battigia. Però qual è la cosa strana? Perché denuncio l'abbandono delle istituzioni? Perché è impossibile far capire ai miei concittadini che deve essere il sindaco e l'amministrazione ad intervenire a fronte delle inadempienze che non hanno portato alla costituzione del comitato regionale per le demolizioni propedeutiche all'utilizzo del genio militare. Quindi non si insedia il comitato regionale, perché l'abusivismo è un problema regionale, non è un problema che riguarda solo la mia comunità, mi vengono date rassicurazioni che non verrò lasciato da solo, sindaco vada avanti. Nel frattempo noi a Licata abbiamo demolito già 22 immobili abusivi entro i 150 metri dalla battigia, però la cosa strana che cos'è? Che non succede nulla, che sembra che l'abusivismo esista solo a Licata, non succede nulla dappertutto e probabilmente tutti intorno, e probabilmente perché siamo un anno dalla campagna elettorale e la politica come al solito cerca di scansare questo argomento, però io sto pagando e sto continuando a pagare un prezzo altissimo insieme alla mia famiglia, solo per fare il mio dovere. E allora la cosa che mi fa più rabbia è che sono stato esortato ad andare avanti, sindaco, un amministratore che segue il rispetto delle regole, che intraprende un percorso di legalità, va tutelato. Bene, io ho una tutela, vivo sotto scorta, ma non è questo stare a fianco un amministratore, secondo me, che fa il proprio dovere. È stare a fianco con i fatti e con i riscontri. Ma quali fatti ci fa capire, sindaco, perché era venuto Alfano? Cioè, che fatti lei chiederebbe, al di là delle parole, della solidarietà? Cosa vorrebbe di concreto? Ci faccia capire. Di concreto noi stiamo anticipando come comune le somme per demolire gli immobili abusivi, sostituendoci a quelle che sono delle competenze anche della regione siciliana, e questi sono i fatti. Il giochetto è nell'isolare Licata, perché sembra quasi che l'abusivismo c'è solo a Licata, e il fatto è questo qua, far comprendere ai cittadini che quello che sta facendo il sindaco di Licata è una cosa corretta e giusta, ma se viene svolto in maniera equa in un contesto regionale. Però questo non sta accadendo, perché ci sono centinaia di immobili abusivi. Allora sembra quasi che il confine territoriale di Licata stabilisca quale di due villette debba essere demolita, quella che si trova solamente a Licata. E io non posso spiegare ai miei concittadini perché tutto attorno non succede nulla. Io vengo ingiuriato, oltraggiato, minacciato. Due settimane fa è stata incendiata l'auto del dirigente, dopo essere stata incendiata la casa dei miei genitori. Perché sembra che sia un'azione che sta portando il sindaco di Licata, quando si sostituisce invece a delle competenze che non dovrebbero essere del sindaco. E insomma, Oscar, qui certo l'allarme è come stare vicino al sindaco. Certo, c'è anche l'aspetto economico, ci ha fatto capire anche brutalmente. Però sindaco, posso fare un'osservazione? Io ho fatto più trasmissioni ottenendo reazioni un po' aspre dalla Sicilia, rendendomi conto, grazie a segnalazioni di avvocati amministrativisti di quella regione, che la legge di recepimento delle norme generali nazionali ed europee in materia urbanistica votata all'Assemblea regionale siciliana nel mese di agosto, questo agosto, quindi insomma, un mese in cui l'attenzione è un po' più bassa, non a caso apre nelle pieghe della sua norma esattamente a condoni fatti dai comuni, perché a differenza del regime nazionale, che prevede il doppio standard, cioè un edificio per essere davvero in regola deve essere in regola con gli standard urbanistici sia quando è stato edificato sia con successivi provvedimenti che vengono presi, invece la legge regionale siciliana ha deciso che insomma può mettersi in regola se l'amministrazione comunale cambia gli standard. In altre parole, la legge regionale siciliana votata dalla maggioranza politica è una legge che apre proprio la possibilità dei condoni a livello comunale. È così. E io mi speravo che ci fosse una grande reazione da parte della stampa nazionale, invece la cosa è passata più o meno sotto silenzio. Quindi, signor sindaco, io purtroppo non mi stupisco, perché l'Assemblea regionale hanno votato questa roba e i cittadini di Licata, quelli che seguono queste vicende, cioè quelli che hanno case abusive a 150 metri nella battigia, lo sanno che da parte della regione il segnale che è venuto dice basta che il sindaco chiuda gli occhi e cambia una normetta al piano urbanistico e in Sicilia tutto torna in regola. Purtroppo, per questo dico, lei si aspetta molto da Palermo risponda, però da Palermo non è venuto il segnale che dico io, cioè un segnale totalmente opposto a quella battaglia che fa lei. No, da Palermo devo, per quello che mi è dato sapere, perché non ho letto tutta la norma, quindi non mi piace addentrarmi in discorsi di cui non ho la competenza, sì, per poterlo fare. Era stato presentato un emendamento, il cosiddetto emendamento Fazio, che prevedeva una sorta di sanatoria per immobili edificati dal 76 esatto. al 91 entro i 150 metri. E quella l'hanno dovuta partizia. Ritirare perché io me ne sono quella, occupato. Quella però vedrà. È stato dichiarato incostituzionale. Esatto. Però il disegno di legge. Però vedrà che nella piega della norma approvata, questo lo dico perché siccome lei si occupa proprio di questo, è bene che veda bene le norme regionali. Vedrà che nella norma approvata, se vuole posso anche mandare, no, mettermi no. a disposizione, c'è questa cosa che purtroppo, ecco, diciamo. Ma entro i 150 metri dalla battigia no, perché esiste un vincolo di inedificabilità assoluta, cioè per gli altri immobili che non contrastano con rilevanti interessi urbanistici, ma entro i 150 metri dalla battigia no, però il problema è proprio della politica, il problema di quella politica è quando dicevo cerca di scansare l'argomento perché nessuno si vuole ascoltare, soprattutto in prossimità esatto. di una campagna elettorale, comprendete che un tema così vasto è un argomento che purtroppo fa male, fa male perché riguarda centinaia di migliaia di persone, quindi un bacino elettorale che fa comodo a tutti mantenere buono, fa comodo a tutti infatti. Dire che il sindaco di Licata è il cattivo è di turno cattivo, sì. perché sostanzialmente sta demolendo le case ai suoi cittadini. Però, sindaco, però io lei, qua nella lei, mia città faccio la spesa. Devo uscire, dovrei uscire con mia moglie, sono diventato papà da qualche giorno, vi assicuro che è difficilissimo vivere in questo clima di tensione. Perché ricordiamo che lei vive sotto scorta, però sindaco, siete una comunità piccola, lei dice le hanno incendiato prima la casa, poi hanno incendiato la macchina del dirigente, cioè io non voglio dire che lei sa chi è stato materialmente, però immaginerà, capirà l'ambiente da cui provengono questo tipo di minacce, no? Guardi, naturalmente sull'argomento c'è un'inchiesta in corso da parte della magistratura, tra l'altro nell'abitazione dei miei genitori era presente un impianto di videosorveglianza, quindi credo che si stia facendo un lavoro da parte della magistratura per individuare i responsabili alla giustizia. No, di sicuro non mi sento di additare nessuno, però sono strane coincidenze che in corrispondenza di un'attività di questo tipo portata avanti dall'amministrazione comunale sono accaduti questi strane fatti, coincidenze purtroppo. Allora sindaco, noi la ringraziamo, le facciamo anche tanti auguri, è diventato padre, quindi lei, però moglie, l'appello è l'appello serve è... più in carica a fare quello che fa piuttosto che di mettersi a darla vinta, questo lo sa meglio di noi, quindi però non lo so, è chiaro che no, che ci capisca sindaco, dirlo da qui sembra una facile. Soluzione comoda e facile, però davvero speriamo che le risposte arrivino alle domande che lei ha fatto, noi io siamo qui, il presidente della regione che venga ancora nella nostra città a dare risposte per quello che sta accadendo. È stato firmato il patto per il Sud che prevede investimenti per la Sicilia e mi sarei aspettato, giusto che le istituzioni volevano stare vicino a una comunità che stava soffrendo, un segnale forte da parte del Presidente della Regione che a Gela assegna 600 milioni di euro allicata a qualche centinaia di migliaia di euro. Purtroppo dico, le istituzioni dovrebbero fare un mea culpa e dovrebbero guardare un po' meno al consenso elettorale e più al bene comune. Grazie a voi. Grazie sindaco. Beh, Rosario Crocetto, ricordiamo, l'Oscar è di Gela adesso, come dato era, di cronaca. Non era casuale che dato di cronaca. Dell'esempio. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi racconteremo una vicenda che riguarda la Sicilia, ci sposteremo di poco, ma positiva, un po' diverso, possiamo dirlo, perché insomma, se no ci dicono che raccontiamo solo storie negative, storie... Vedrai, è uno dei 146 comuni italiani che sta in dissesto, quindi esplosa la finanza pubblica, e c'è una persona che sta dimostrando che ci si dà sulle mani, che si può fare invece che a quel punto sedersi con le teste tra le mani e far pagare soldi più i cittadini. Certo, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. 24 mattino. Attenti a noi due. Forever young. secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR? Ma, ehi, ma è del mestiere questo, no? Senta, quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15... No, non si arrabbia. No, chi si arrabbia? Questo è il compito. Mettevi i timbri alle licenze di caccia e pesca per 10 anni. Eccolo qui, che è con Zalone. Però fantastico questo montaggio per me. Forever Young e che è con Zalone, con l'eterno ritorno di questa generalizzazione a cui il Premier ha fatto ricorso ieri per dire: non ne abbiamo più bisogno. Esatto. Mi realtà... chiedevo, ma striderà o no? Invece non strideva. Non strideva Checco Zalone su Bob Dylan. No, non stride perché. È una forma realtà... di letteratura anche quella di Checco, no? Sai, una forma di letteratura, noi non a caso abbiamo le commedie di Plauto, la parte diciamo così popolare, bassa, anche volgare, quello che vuoi tu, però è, fa parte a pieno titolo della letteratura. E come se ne fa parte? Perché sai com'è? Come dice in un famoso filmetto Totò, che è all'apice di questa espressione, per esempio, castiga ridendo i mori, cioè scherzando castiga i costumi, per così dire. Altro che... Allora, caro Oscar, c'è Carmelo che ci chiama da Roma. Buongiorno, Carmelo. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie a lei, dica. Ecco, premetto che io sono un dipendente pubblico da ormai tanto tempo. Che è Cozzaloniano? No. E non sono che Cozzaloniano perché non lo sono mai stato, ma volevo intervenire proprio su questo. Ammesso e non concesso che esista il cozzalonismo, perché come avete detto correttamente anche voi, si tratta di una generalizzazione e credo che la maggior parte dei, io come i miei colleghi non ci, nella quale non ci riconosciamo, ma lasciamo perdere questo discorso. Sicuramente un problema di checco-zalonismo nella pubblica amministrazione c'è. Beh, chiediamoci perché. Voi più volte avete fatto riferimento a questa cosa. Probabilmente, dico probabilmente, i dipendenti pubblici non nascono checco-zaloniani. Lo diventano, probabilmente lo diventano. Ammettiamo pure che riusciamo a selezionare solo che cozzaloni, allora chiediamoci quali sono i meccanismi che si possono. Ma questa è un'interessante riflessione, Oscar, perché Carmelo dice non è che o sono tutti, come dire, hanno il gene del checco-zalonismo, no. Eppure riusciamo a beccare tutti quelli che ce l'hanno. Questo è interessante. Devo dire, nell'amministrazione in cui lavoro io, ad esempio, le selezioni del personale da qualche anno vengono integrate, oltre che dal classico concorso con lo scritto e l'orale, anche da un periodo di tirocinio, nel quale il funzionario in tirocinio viene osservato nei comportamenti organizzativi che mette in atto e che quindi alla fine la valutazione alla fine del concorso viene fatta attraverso le prove scritte orali, ma anche attraverso l'osservazione. No, va bene, Carmelo, la ringraziamo per questa riflessione, Oscar. Io sono tanto a favore di quello che dice Carmelo, che abbiamo ritoccato con mano qui a Radio 24 qualche giorno fa, perché ci siamo posti un problema e siamo stati alluvionati da telefonate SMS di ascoltatori. E il problema era questo, proprio come dice Carmelo, ci sono pezzi dello Stato dove non ci sono dirigenti nominati per concorso. Classico, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane. Ebbene, da anni, malgrado la Corte Costituzionale abbia detto non potete stare con i dirigenti chiamati per cordata personale, quei pezzi dello Stato continuano a non assolvere al dovere a cui viene chiamata la Corte Costituzionale. Ci siamo posti un problema. Come mai non pescano dalle graduatorie di chi ha vinto e ha ottenuto l'idoneità di regolari concorsi di questi ultimi anni per la dirigenza pubblica? Abbiamo circa 400 vincitori di concorso per dirigenza pubblica, però l'Agenzia delle Entrate non pesca di là. Ebbene, ci hanno chiamato dirigenti pubblici o ex dirigenti pubblici dicendo cara Radio 24, voi ponete il problema, ma la risposta è in re ipsa, perché se li vogliono scegliere loro, mentre chi ha vinto un concorso non fa parte ricordate. Allora, questo dà ragione a Carmelo e mi ha molto colpito che ci abbiano chiamato funzionari pubblici per dircelo, ed è lì che poi nasce nei rami sottostanti il checco-zalonismo, però il problema sta su. Come sempre, il pesce puzza sempre dalla testa, io dico sempre così. Caro Oscar, prima di Lorenzo Lacchetti, però volevamo raccontare questa storia invece sempre che proviene dalla Sicilia, perché abbiamo chiamato un assessore al bilancio del comune di Caltagirone, comune che non se la passa benissimo, siamo in provincia di Catania, Massimo Giaconia, buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno. assessore al bilancio, Oscar, qui è una storia diversa. Pensa un po', questa è la città nativa di una delle più grandi figure storiche, luminose, del liberale cattolico, Don Sturzo, che insomma ha scritto tonnellate di pagine, pronunciato centinaia di discorsi sul rigore della finanza pubblica, sul fatto che la politica deve stare lontana dai dissesti, eccetera. Eppure il comune di Caltagirone è uno dei 146 in Italia che sta proprio nel dissesto. Ci sono due strade per affrontare nella finanza pubblica italiana quando le cose vanno male: il dissesto e il predissesto, e loro sono nel dissesto pieno. Eppure Giaconia, lei ha accettato, non vivendo a Caltagirone, essendo di Caltagirone, di fare l'assessore al bilancio di una città in dissesto, è così? Sì, è così, l'ho accettato con il cuore. Io ho vissuto a Caltagirone fino a 18 anni, quando finito il liceo mi sono trasferito a Milano, e poi la ragnatela di Milano mi ha trattenuto. Però un mio compagno di classe del liceo, che si era candidato a fare il sindaco, mi ha chiesto di dargli una mano. Caltagirone era una situazione drammatica, il dissesto è stato dichiarato nel 2013, dal 2011 non approva un bilancio. Da 5 anni non approva un bilancio. Però noi l'abbiamo chiamata perché c'è una, per così dire, ogni città in dissesto ha la sua particolarità, un'ampiezza diversa del suo deficit, del suo debito, del debito fuori bilancio e così via. Però in realtà tutte le città che finiscono in dissesto, questo fino a Roma che lo rischia, hanno in realtà lo stesso genere di problemi, cioè enormi rispetto all'entità del bilancio, debiti fuori bilancio e residui attivi e passivi che sono ingestibili, crediti in realtà appostati lì da anni ma inesigibili e debiti che non vengono pagati. Allora, siccome i problemi sono questi, lei in pochi mesi, da quello che dicono a Caltagirone, sta riuscendo a ottenere risultati che in tutte le città in dissesto vengono considerati impossibili in poche settimane. Cioè, e quindi l'abbiamo chiamata per questo. Può spiegare a chi è in ascolto se si può fare davvero? Perché sembrerebbe, nel suo caso, che si possa fare. Invece che dire, cari caltagironesi, vi beccate solo l'aumento al massimo delle tasse, perché qua non si può fare niente. E invece? Invece è successo che con competenza, concretezza, determinazione e tenacia qualcosa l'abbiamo fatta. Allora, quando sono stato nominato a fine giugno, avevo già ben studiato la situazione del comune di Caltagirone, però sui documenti ufficiali, pareggio di un bilancio è basato su due presupposti, costi ed entrate. Quindi ero assolutamente consapevole che le entrate non fossero sufficienti, bisognava fare degli visiti di accertamento. Però ho iniziato dall'esame dei costi. Allora ho chiesto di avere un elenco dei debiti che il comune aveva e mi hanno detto 40 milioni. Ho chiesto di avere dei dettagli con i nomi e i numeri. Dei 40 milioni, 20 milioni erano partite di giro, quindi si è ridotto a 20 milioni. Ho chiesto ancora di avere dei numeri, dei dettagli. Ho impiegato 2 settimane, ogni giorno ho chiesto questi dettagli e alla fine cosa ho scoperto? Ho scoperto che abbiamo riaccertato, si chiama così, i residui passivi, cancellandone la metà. Cioè sostanzialmente 10 milioni di costi iscritti tra il 2012 e il 2015 non erano stati sostenuti, non c'erano i debitori, ma rimanevano in bilancio. Allora questo si chiama riaccertamento dei residui passivi e, come prevede anche la contabilità pubblica, le riserve occulte, perché queste sono riserve occulte, devono essere cancellate e le abbiamo cancellate. Quindi sono rimasti 10 milioni di debiti. Ma dei debitori fantasma c'erano? Fantasma. Tra il 2012 e il 2015 ci sono 10 milioni di debiti. Abbiamo attivato allora una serie di avvisi di accertamento. In questi giorni sono in corso di notifica 5 anni di annualità, perché nel frattempo l'amministrazione non aveva fatto nulla, perché il problema vero è la carenza di entrate rispetto ai costi. Stiamo richiedendo a contribuenti che non hanno pagato le imposte negli anni precedenti circa 20 milioni. Allora, come dico, in città all'inizio c'era incredulità su questo, adesso c'è una piena condivisione. Ho sentito prima il sindaco di Licata, che ha evidentemente anche dei problemi relazionali con alcuni abitanti, invece io ho creato un clima estremamente positivo, cioè dico ai dipendenti del comune che quando ci siamo insediati avevano 5 mensilità arretrate, adesso ne hanno solo 2 perché le stiamo pagando tutte. Agli operatori della nettezza urbana che vedevano ogni mese minacciato il loro compenso, ho detto: vedete, noi possiamo pagare i costi avendo entrate. L'opposizione fino a qualche giorno fa ancora, centrosinistra, mi sollecitava la stipula di ulteriori debiti per pagare i costi. Io dico: no, non si fanno debiti per pagare i costi, si richiedono entrate. Il riequilibrio deve essere non solo di conto economico sulla carta, deve essere un riequilibrio finanziario. Allora, con 10 milioni di maggiori entrate salviamo tutti i debiti degli ultimi 4 anni dell'amministrazione, perché La domanda che mi sono posto quando sono stato nominato, dico, ma è vergognoso che ci siano dei creditori del 2012 che non sono ancora pagati. Perché se l'amministrazione pubblica, partendo dalla, da un ente che ha 40.000 abitanti, ma questo ragionamento poi si può fare a livello di regione, di Stato, se l'amministrazione pagasse i suoi debiti, beh, l'economia ne beneficia, ah, probabilmente beh, certo, sì, qualche impresa non fallisce. Mi consenta la battuta su questo, perché ieri il Premier ha detto arriva la rivoluzione con la legge finanziaria per Equitalia, perché mi hanno detto che dal 7 novembre, anzi prima dell'approvazione della legge finanziaria, il capo di Equitalia mi ha detto che dal 7 novembre parte la rivoluzione. Cari contribuenti, dal 7 novembre, sì, dice Equitalia vi manda un SMS per dirvi che siete in ritardo ai pagamenti, e la mia risposta con un tweet è stata no, la rivoluzione sarà quando oltre a questo anche chi aspetta e non è pagato dallo Stato, il fornitore dello Stato ottiene il pagamento dallo Stato allo stesso modo con un SMS, esattamente come ci diceva adesso Massimo Giaconelli. Comunque io dico, Massimo Giaconelli è interessante perché dice sia sui crediti che sui debiti, insomma, se uno vuole si può fare, ecco, cioè, si può fare, si può fare. E questa per me è una bella cosa, che vale per Caltagirone, ma giustamente può essere applicato magari un po' più difficile su larga scala anche con comuni grandi, però il principio è lo stesso. Faccio un esempio, mentre lavoravo su questi principi, sul Sole 24 Ore di metà agosto, 17, 18, 19 di agosto, leggevo che Minenna stava facendo la stessa cosa, cioè stava a Roma. E infatti è saltato, però non è più aveva accertato 70 milioni di rettifiche passivi da fare. Sì, infatti è saltato. Il lavoro doveva continuare. Doveva continuare, invece no. Ci scusiamo, Oscar. Lorenzo da Chieti, perdonaci, ci perdoni. Se lunedì vuole stare con noi, noi la richiamiamo. Purtroppo i tempi sono così, sono tirannici. Ma il problema è che poi Alessandro deve andare via prima, perché lui è andato a Roma, perché lì c'ha dei materassi pieni di contanti anche lui sì, da recuperare. Dopo vengono a casa tua dai controsoffitti. Bravo. Che dici sempre che sono in cartongesso, non capisco perché. Ci stiamo preparando per farli emergere. Esatto. Per farli emergere. Tutto oggi alle 4:30, Oscar Giannino, domani alle anche 10, i conti della Belva, no, 10, no, e poi lunedì ci ritroviamo. Torneremo a parlare di referendum, Oscar. Continueremo a informare a modo nostro cittadini, senza alzare la voce. Ciao.